Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La polizia ferroviaria ha fermato un gruppo di 5 ragazzi intenti a dipingere con bombolette spray le fiancate di un treno regionale in partenza da Parma e diretto a Pontremoli. I giovani writers tra i 24 e i 29 anni, tutti svizzeri residenti a Lugano, colti in fragranza e con il volto coperto, hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati dagli agenti. Oltre a 30 bombolette spray di vario colore, i giovani avevano alcune videocamere con le registrazioni dell'intera attività di graffitaggio effettuata prima dell'intervento degli agenti, filmati che gli inquirenti ritengono fosse intenzione dei giovani postare su siti internet normalmente visualizzati da altri giovani writers. Tutte le bombolette spray e le schede di memoria contenenti i filmati sono stati sequestrati. 5 giovani incensurati sono stati denunciati per il reato di concorso in imbrattamento di cose altrui, aggravato perché commesso su mezzi destinati al trasporto pubblico. Io ho sempre avuto una istintiva riluttanza ad abbracciare l'estetica umarellica che vuole che le città siano come delle bomboniere, nitide, pulite, senza segni di passaggio degli esseri umani, quasi delle città fatte di Lego, che dovrebbero essere tranquillamente il sogno di ogni umarel, che poi sono i primi che fanno fare la cacca ai cani per terra, che buttano le loro schifezze al di fuori dei cassonetti che non ce la fanno ad alzarli e via dicendo. Oh, quello magari, poverino, chi non ce la fa ha dei problemi, ma che non hanno voglia, hanno in gran dispregio la differenza. Quindi il loro umido galleggia per giorni e giorni abbuttato per terra sotto degli alberi. Questa mattina davanti a casa mia c'era un televisore anni 70. Chi ce l'aveva ancora in casa se non un umarello, un televisore anni 70, quelli ancora col tubo catodico, appoggiato nottetempo sul marciapiede. È lì, ma chi lo piglierà mai? Non ci penseranno nemmeno a scendere dal furgoncino gli uomini della nettezza urbana. Rimarrà lì fino a che, non so, un altro umarello se lo porterà a casa sperando di poterlo accomodare. Beh, devo dire che in realtà però questa volta comincia a starmi un po' sulle scatole chi si è arrampicato su un'impalcatura, ha fatto una scritta cubitale sulla terrazza che ha reso noto il film di Sorrentino, La grande bellezza, quella dove Jeppe Gambardella se ne va sull'amaca, riceve i suoi amici del cavolo, dove la santa mistica vede questa sorta di volo di fenicotteri rosa. Insomma, è un luogo dell'immaginario come è passato nella storia del cinema. Naturalmente stanno facendo dei lavori o facendo restaurando la facciata, quindi qualcuno si è arrampicato e ha fatto un'enorme scritta cubitale. Oggi nella stampa, nella free press romana, è una notizia. A livello nazionale non importerà probabilmente molto a nessuno, però è interessante che sono state sentite, al di là di questo gesto di deriva psicogeografica, di street art, di oltraggio comunque all'arte tradizionale, chiamatela come volete, è una cialtronata andare a sporcare con le bombolette qualcosa che vede tutto il mondo, perché proprio davanti al Colosseo, anche perché poi ripulirlo costa parecchio. Hanno intervistato le persone che andranno a fare questo tipo di lavoro, quindi dovranno spendere una cifra considerevole, che poi sarà una cifra che pagheremo anche noi in parte, perché poi non è giusto, assolutamente ci prendiamo anche l'onere di chi la sera va in giro con le bombolette a dipingere, perché trova sia la maniera migliore per attestare la propria esistenza. Poi vengono fatte le foto condivise sui social network e l'autore di questa scritta oggi sarà gongolante, perché ne parliamo anche alla radio. 800 24 00 24. Quanto vi siete stancati di vedere, oltre la sporcizia, oltre la incuria, anche chi non abbia un piffero di meglio da fare nella vita che passi le proprie giornate a sporcare i muri della città, scrivendoci cose orribili che nulla hanno di artistico e nulla hanno di rivoluzionario, se non l'esito della neghittosità di chi nella vita non trova di meglio per affermare la sua esistenza. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Io sono stato writers da giovani. Io non sosterrò mai uno che fa una tag su un monumento pubblico, mai lo sosterrò. Uno che fa una tag su un monumento pubblico, però succede. Ci sono tanti gruppi di ragazzi che nella strada si aggregano e all'interno di un tessuto metropolitano tentano di emergere collettivamente e singolarmente. Questa è la base del writing. ok? Per cui il writing è già un elemento, un pezzo di cultura che si sviluppa in antagonismo a quello che è un sistema, una logica di potere che governa una città e che, diciamo, in qualche modo si cerca di sfondare, di aprire una crepa, di emergere, di avere il proprio io, di essere protagonisti. Però è obiettivo che ci sono dei... Sì, vabbè, ci sta tutto, siamo d'accordo, figuriamoci se l'antagonismo non ha diritto comunque di esprimersi, molte volte da questa sorta di dialettica anche dura, anche ruvida, può nascere anche una riflessione più ampia, possono nascere delle reali forme di espressione artistica. Ci sono writer che si occupano di interi quartieri e c'è una sorta di recupero gioioso di posti bruttissimi in cui l'infamità della speculazione ha creato dei luoghi invivibili, passandoci delle mani di vernice e delle espressioni creative con intento artistico, si crea qualcosa che in sé è del fantasmagorico, è un'irruzione singolare nella banalità dell'obbrobrio. Siamo d'accordo, ma chi fa tag semplicemente con delle bombolette per affermare il proprio diritto di piccola banda di condominio, io trovo che sia un'operazione terrificante. Funziona molto, almeno a Roma, di andare a scrivere sotto casa delle ragazze frasi d'amore o frasi d'odio quando le ragazze accannano. Il mio marciapiede è stato beneficato per mesi di una scritta enorme a una ragazzina che probabilmente abita nel mio palazzo, scritta di 3 metri per 5 metri. Ecco, questo però comporta, bisogna pensare poi, oltre il fastidio di chi deve vederlo, anche una spesa notevole per poi occuparsi di ripristinare lo stato d'origine. In particolare questo sfregio alla grande bellezza, come è stato chiamato oggi dalla Free Press Romana, costerà abbastanza. Io ho subito convocato la persona che si dovrà occupare, che si occuperà di cose del genere e sa esattamente più o meno quali sono i costi, quali sono le necessità di intervento di fronte a queste operazioni, che di artistico in realtà hanno ben poco. Lorenzo Lana, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. È il titolare della Pelicot Italia SRL, che opera dal 98, una società specializzata nel campo delle ripuliture civili e monumentali dei trattamenti antigraffiti. Ora, la ripulitura civile e monumentale sono delle manutenzioni che da quando esistono le città moderne sono sempre state fatte per le ingiurie del tempo, poi dell'inquinamento, degli animali urbani, ma in particolare... Secondo lei, da quanti anni vi dovete occupare anche delle persone che sporcano volontariamente i muri? Ma ormai da 15 anni, da quando questo fenomeno è diventato sempre più radicato nel territorio e soprattutto da quando le leggi non tutelano i condomini o i beni pubblici. Cosa rischia una persona che con la bomboletta sporca un muro? Con qualsiasi intento, denigratorio, artistico? Nulla, niente. Quasi nulla. Al massimo, se è minorenne, verrà condannato a ripulire il muro lui stesso. Ma poi è capace di farlo? No. E rischia di fare più danni di quelli che già ha fatto. Ecco, un'operazione come quella, non so se ha visto i giornali questa mattina o ha capito, un'operazione di una scritta che a occhio e croce sarà alta 3-4 metri e lunga 7-8 metri, così. Quanto costa un intervento poi nel centro storico, in cui bisognerà montare scale, sistemi di sicurezza, camion e via dicendo? Così a occhio e croce siamo su un costo stimato di 2.500 euro. Sì, il suo collega dice 2.500 euro, più bisogna pagare anche l'ingresso col camion nel centro storico, viene chiesto un prezzo. Ecco, chi paga questa cifra? Il condominio, il proprietario, chi la paga? Se il muro è condominiale, paga il condominio, ripartito poi tra tutti i condomini. Se è privato di una singola persona, pagherà lui. Ecco, non ci sono mai che un comune decide di fare le puliture a spese sue e quindi sì, c'è anche soldi pubblici in questo caso. Sì, può capitare. Non nel comune di Roma, perché il comune di Roma ha una sua organizzazione che si chiama Decoro Urbano e si preoccupa di teoricamente pulire o mantenere. Il problema è che non hanno, presumo, fondi o volontà o energie, e quello che fanno spesso e volentieri ricoprono con uno strato di vernice. Ecco, le male lingue dicono che vi chiamano per intervenire quelli del decoro urbano solo quando ci sono scritte che denigrano i politici, se no alla fine possono rimanere lì in eterno, è vero? Pare che sia così, o quando su quella via o quella zona di passaggio deve transitare un personaggio molto importante. Ecco, quando viene un capo di Stato estero, esatto. Un ambasciatore, così allora bisogna pulire tutto. Esatto, esattamente. Ecco, invece la tecnica di pulitura diciamo della vernice spray sugli intonaci dei palazzi comporta una procedura ben precisa, penso. Bisogna saperlo fare, non può farlo chiunque. No, noi usiamo dei macchinari testati, riconosciuti dalla sovrintendenza, che usano un sistema a bassa pressione proprio per non rovinare il supporto, e quindi ha bisogno comunque di impianti e macchinari di un certo tipo e una manualità che non tutti possono avere, e quindi l'esperienza. Quindi, perché, ma tante volte so, è un travertino, un marmo, anche esatto. Un materiale pregiato, penso in città storiche, e non può intervenire un cittadino e prendersi a pulirsela da solo perché potrebbe creare dei problemi. Diciamo che non ha gli strumenti adatti per poterlo fare, perché sono questi macchinari non si trovano in negozi di uso comune, sono macchine un po' particolari e quindi bisogna saperle anche usare e avere soprattutto gli strumenti adatti per poterle usare, vedi, compressori, purgoni, perché insomma sono ingombranti, vanno trasportati. Alcuni provano con dei prodotti chimici, ma i prodotti chimici hanno le controindicazioni che magari sciolgono la vernice della bomboletta, ma a quel punto si rimbratta tutto il muro perché non sono stati preventivamente protetti, e quindi il muro si riassorbe tutto quanto e crea un pastrocchio totale. Ecco, perché si dice che nel 98 si è aumentato questo fenomeno in maniera particolare negli ultimi anni? Cosa è accaduto? Ma io penso che sia più stato un fenomeno, una moda che non è stata mai combattuta. Sono spesso, presumibilmente, ragazzini quelli che vanno a fare i tagli in giro per la città. Quindi un ragazzino di 13-14 anni fa la scritta, e il giorno dopo arriva il compagno e dice: l'ha fatta lui, la faccio pure io, e via dicendo. E non c'è mai stata una guerra vera e propria, tra virgolette, per combattere questo fenomeno e stroncarlo all'inizio, e quindi è degenerato, è andato da solo. Non c'è stata volontà da parte di nessuno di voler mettersi in campo e cercare di estirparlo radicalmente, anche perché questo comportava dei costi che il privato probabilmente non voleva neanche affrontare. Oddio, c'è da dire che hanno anche creato un indotto notevole, perché tante ditte come lei che fanno questo tipo di lavoro, chi vende le bombolette, su questo tutto sommato si è creata una piccola economia, nel bene o nel male. Ma no, perché guardi, noi operiamo molto, soprattutto in fase di ristrutturazione dei palazzi, e quindi su superfici che sono sporche, sì, ma soprattutto di smog. Lo fareste comunque, diciamo, un lavoro che fareste, sì, comunque. Sì, cioè noi andiamo a ripulire dei muri che sono stati sporcati nell'arco di decenni, se non secoli, tra smog, funghi, licheni, intemperie, quello che si può depositare sopra, e ovviamente anche i tagli. Poi facciamo la pulitura, spesso applichiamo dei protettivi, e qualche condominio che è un po' più sensibile ci ricontatta poi per rimuovere i tag fatti su muri già puliti. Molte volte lo fanno proprio appena pulito, sembra sì. Che vedano improvvisamente una superficie nuova e voglia di scriverci una bella lavagna pronta all'uso. Sentiamo qualche ascoltatore. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, io ho chiamato perché volevo mettere in risalto il fatto che, diciamo, queste scritte mettono in evidenza il fatto che l'arte non dovrebbe essere imposta obbligatoriamente alle persone, ma è proprio un modus operandi ormai che si verifica dappertutto, perché vuol dire che entri nel negozio di scarpe e devi sentirti la musica che ti trappano le orecchie e non riesci neanche a parlare col commesso perché c'è qualcuno che pensa che la musica deve essere per forza piacere. Io dico, sono un appassionato di arti visive. C'è stato un periodo, forse parlo a mitraglia, ma c'è stato anche un periodo storico in cui c'è stato Keith Haring che è un artista che è nato facendo murales, quindi di pitture sul muro, eccetera. È un po' passato, però diciamo che ha segnato un tempo. Esatto, però questi ragazzi qui credono di essere artisti, in realtà sono solo maleducati, perché impongono un loro modo di imbracare il muro a terzi. Cioè, se hanno una protesta da fare, se vogliono abbellire la città, perché non fanno una grossa tela, la appendono notte e tempo e dicono questa è una tela fatta, sì, uno dice la tela potrebbe toglierla, però c'è tanta gente che come me è appassionata d'arte, potrebbe anche guardarla e dire però sti ragazzi forse vogliono dire qualcosa, la lascio stare, non la strappo perché hanno voluto dire qualcosa. Ma secondo me lo sa cos'è? Imbrattare un muro, fare, o anche imporre la musica a tutto volume alle persone eccetera, è un modo antipatico di voler imporre un modo. È chiaro, di... questo è chiaro, io dico secondo me il mio punto di vista è una rilettura ormai postuma di un fenomeno artistico che poteva avere il suo senso se ancorato all'ideologia, allo spirito di un tempo, a un'idea comunque di recupero anche violento degli spazi del potere, tutte cose che oggi le analizziamo come fenomeno del passato. Ritirare fuori nelle nostre città e nella nostra epoca della cultura digitale ancora le persone, in cui le persone si taggano continuamente attraverso i loro smartphone, il tag è un segno di diffusione e condivisione di un messaggio digitale, che ancora pensano che taggare la propria esistenza o taggare il proprio spirito antagonista nelle città, strumento del potere, dell'organizzazione mentale vessatoria, significa andare in giro con una bomboletta, scrivere il proprio nome per la banda di quartiere o di condominio avversaria, mi sembra un po' passatista, appartengono al passato, sono delle forme di pedissico ripetersi di qualcosa mal digerito, mal conosciuto, per nulla studiato, che appartiene al passato, sono fuori del tempo quelli che sporcano la città, questo è poco ma sicuro. A un strano istante. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Melog. Cronache meridiane. Ormai anche, cioè, sui marciapiedi non si può più camminare, devi fare lo slalom fra gli escrementi e i muri sono tutti imbrattati, cartacce, adesivi sulle vetrine. È in queste situazioni che un gruppo di cittadini che ha preso personalmente parte al movimento quando hanno visto le mura dei loro palazzi colpite dai rioters ha dato inizio ad un movimento di volontari chiamato Retake Roma, uniti da uno stesso proposito. 800240024, parliamo delle varie volontarie maniere di sporcare una città. Sporcarle proprio come un gesto preciso, determinato, se volessimo usare parole che ormai hanno perso il loro senso, con un significato politico, ma di politico c'è più niente. Vi leggo qualche sms, mi ricordo un ascoltatore che le ferrovie tedesche hanno dei droni che nottetempo girano lungo i treni parcheggiati nelle stazioni per fotografare i writer. Poi c'è un altro messaggio che leggo, non credo sia diretto a me, mi sarebbe molto piaciuto, penso a qualche collega della mattina, forse Giannino, non so, quelli che stanno nell'orario che viene determinato da questo messaggio. Lo leggo tale quale, perché è bello e poetico e vale la pena. Quindi chi saprà che a lui è diretto se lo prenderà per sé. Buongiorno, al mattino col caffè arriva la tua voce ed è dolce e consueto tutto questo, l'uno e l'altro insieme, piacevolmente, memorie di prati, di giardini, di fiori e profumi, evoca in me questa dolce eco di te, amore di sempre e di mai, conosciuto ed estraneo, cuore che ti concedi e che ti neghi. Il caffè la mattina è l'ora di Giannino e di Milan, decidetevi uno di voi due con la dolce voce. Marco, buongiorno. Sì, pronto? Sì. Buondì. Niente, io telefono da Milano, no? Volevo sottolineare una cosa, anzi due. Innanzitutto la giunta di Milano, ho notato che ha dato dei muri praticamente in mano ai graffitari. Sì, in uso, succede, ma fanno parecchi comuni. Ma non gli piace perché lì è come andare in uno spazio, sì, ma il punto non c'ha senso. Il punto fondamentale, no, è che ho notato che, ok, questi si sono attrezzati, no, e nel mio quartiere, ad esempio, che è la zona praticamente vicino, sì, al Teatro Maggiore, si divertono praticamente ogni settimana appunto a imbrattare i muri, perché sostanzialmente io, la mia opinione è quella, no? Ma il bello è questo, che oltretutto si fanno i dispetti tra di loro. Cioè, nel senso, quando uno ha appena finito di fare una... Uno delle loro opere. opere artistiche, no? Come le chiamano le anime belle, no? Arriva subito un'altra squadra, no? Che li vede all'opera, no? Che sbiancano di nuovo il muro e ricoprono. Vabbè, questo fa parte del gioco, diciamo, è come le grandi battaglie del passato rievocate dalle prologo di paese. È la battaglia che c'è fra i writer di conquistare spazi urbani sovrapponendo le proprie opere, quelle degli altri, ricostruita per il pubblico appunto degli Umarell che guarda in una piazzettina di Milano. Fabiola Minoletti, buongiorno. Buongiorno. È segretaria dell'Associazione Nazionale Antigraffiti e Ritech Milano. Lei, diciamo, ha fatto della ripulitura delle città una ragione di vita. Vediamo di capire un po'. Voi avrete sicuramente un'idea della tipologia dell'imbrattatore urbano, che penso che il writer di vecchia generazione ormai, non so, girerà col catetere. Questi chi sono invece che fanno queste cose? Ma diciamo che noi abbiamo proprio condotto uno studio l'anno scorso utilizzando proprio come dati i dati che ci ha trasmesso il nucleo della polizia locale di Milano, che è il nucleo preposto all'antigraffiti, e quindi abbiamo utilizzato come fonte di dati oltre 200 writer indagati. E che è venuto fuori? Cosa è venuto fuori? Sono venuti fuori una serie di dati molto interessanti. Vabbè, prima di tutto, non so, l'età. Il writer, quello diciamo più presente, che rappresentava il 47% dei writer indagati, ha un'età tra i 18 e i 25 anni, però sono anche in aumento i giovani writer, come giustamente sentivo che ne parlavate prima. L'età del ragazzo che per la prima volta si avvicina alla bomboletta è scesa dai 14 anni ai 12 anni. Quindi i 12 anni cominciano. Esatto, diciamo, anche se poi in realtà la percentuale dei minori rispetto al tutto è molto bassa, ad oggi rappresenta solo il 5-7%. Ecco, ti sei fatta te un'idea anche sui moventi? Perché non credo che più ci sia questa idea politica che risale un pochino a qualche decennio fa, mi sembra un po' strano. Sì, diciamo che ora come ora, perché noi abbiamo anche analizzato una serie proprio di Facebook che sono stati sequestrati questi writer, proprio per capire qual è la loro dialettica, per capire cosa cercano. Ma da un lato esprimono rabbia, è come se ci fosse in loro una voglia quasi negativa, no? di distruggere la città. Quindi vengono da zone marginali, si immagina? Se vengono... assolutamente, no. Perché diciamo che il writer, il suo diciamo ceto di provenienza, la sua famiglia di provenienza è molto trasversale, quindi colpisce ogni, cioè non c'è una preponderanza di una classe o di un figlio di, no, è trasversale, colpisce veramente, su questo è molto, molto uniforme. Diciamo che ci sono dei dati come ad esempio che il 30% arriva da famiglie di separati, il 70% ha fatto studi artistici, e già questo ci dice un qualcosa. Quindi, certo, che i nostri licei artistici sfondino persone che poi scrivono sui muri mi viene veramente da sorridere. Comunque. Sì, perché vuol dire che quindi c'è già nel giovane una componente, una passione per l'arte, che però molto probabilmente viene anche dagli stessi educatori, dagli stessi insegnanti, mal indirizzata. Cioè quindi deve essere invece queste forme che quindi sono insite. Sì, perché gli insegnanti dei artistici, poverini, a loro volta sono artisti delusi che si sono fatti tutti gli anni 70, tutte le contestazioni, quindi pensano che di poter seminare ancora in questi giovani, perché i licei artistici, li vedo anche nelle città che io frequento, attorno le zone sono tutte deturpate, perché questi ragazzi pensano di potersi esprimere sui muri perché nessuno gli ha spiegato che esiste un prima ma anche un dopo la street art. C'è anche da dire che, fra l'altro, oggi è difficile, per come è organizzato il mercato, che esista un artista incompreso, non esiste. Se uno ha titolo, il mercato lo intercetta e lo lancia sul mercato. Quindi chi pensa di scrivere sui muri, scriverà sui muri per tutta la vita, probabilmente. Non ha altre chance. Ma sento presente che tanti di questi invece che lavorano fanno proprio sempre lavori legati al mondo artistico, quindi sono o tatuatori o grafici, quindi questo dato è molto interessante. Però l'altra cosa che invece è, come lei prima diceva, anche per capire come è il fenomeno, la cosa inquietante è che il 100% dei genitori delle persone indagate sanno che il loro figlio è un writer vandalico. Perché le bombolette la sera torna a casa, le metterà sotto al letto, i pantaloncini glieli pulisce la mamma con la lavatrice, certo, però è chiaro. Non, il genitore sta zitto. Cioè sta zitto e quindi preferisce, piuttosto che entrare in confronto, in discussione col ragazzo per capire le motivazioni di questa sua rabbia, di questo suo disagio, preferiscono far finta di niente. Quindi nella mia interpretazione, cioè io studio il fenomeno dal 2008. No, quindi lei sa di sicuramente più di tutti. Quindi. Io vedo anche un problema di comunicazione, cioè il ragazzo in un certo senso scrive sui muri anche per esprimere un'incomprensione, una mancanza di comunicazione. Ma solo in Italia è rimasta rabbia. Questa moda, cioè siamo il fanalino di coda, non credo che in Europa, le città europee, sono gira per le capitali europee, non le vede ma imbrattate, no, con questa consistenza, perché no, non sono soltanto writer, poi ci sono anche quelli che comprano il pennarello e scrivono delle stupidaggini anche, certo, brutte dappertutto, tanto per dire che ci sono, sì, mi sembra che siamo un po' provinciali in questo. Cioè lo scrivere sui muri, comunque lo scrivere fa parte comunque del nostro, anche della nostra natura umana. Sì, ma con una pretesa, con una velleità, la, con una velleità, no, assolutamente la realtà, no, esatto, capito, hanno dei modelli, diciamo, quelli che vanno col pennarello hanno, sono il trash dei writer, che a loro volta sono il trash dell'arte nella forma espressiva più consistente, non sono nemmeno capaci ad andare con la bomboletta, comprano il pennarello e fingono di fare un tag, ma che non ha nulla a che fare, una ridicolata, lo potrebbero fare sul diario di Iacovitti di scuola e sarebbe molto meglio. Ci fermiamo un istante. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Hanno imbrattato edifici demaniali, palazzi storici e abitazioni del centro con più di 400 disegni. I carabinieri, dopo un'indagine di alcune settimane, hanno individuato quattro writers che con i loro murales hanno causato danni per decine di migliaia di euro. Tre sono studenti, uno ha 17 anni. 800024, parliamo degli imbrattatori delle città, intanto si stringe il cerchio delle supposizioni, pari alla poesia d'amore sulle voci carezzevoli, non sia destinato a un uomo ma a delle donne, e il cerchio si sta stringendo intorno al duo Carbone Rosciani, però queste sono soltanto illazioni. Sentiamo l'ascoltatore, Luigi, buongiorno. Luigi. Pronto, mi sente? Eccolo Luigi, sì. Buongiorno, senta, io non capisco perché lei si scandalizza tanto. No, io mi scandalizzo mai, nulla mi scandalizza me. Ecco, perché non la, meno male, perché questi sono il prodotto dell'insegnamento dei propri genitori. Abbiamo perso tutti i valori. Beh, proprio i genitori le hanno distrutte con le bombe le città, quindi forse tutto sommato. Ma io non lo so, le racconto questa cosa. Una mia conoscente, insegnante di scuola elementare, prima e seconda scuola elementare, ha paura di andare a scuola, la prendono a calci sugli stinchi. Beh, ecco, è un altro problema, però questo. E non può fare niente, però questo è un indice. E lo sa qui da noi che cosa succede? C'è una banda che va in giro, se lei lascia la macchina. Ma noi dove da voi? Dove state? Dove sta lei? Genzano di Roma. A Genzano, la banda di Genzano, sì. Pensi lei che cosa fanno? Al mio vicino di casa hanno, lui l'ha lasciato la macchina in un parcheggio, ma è un parcheggio diciamo al centro oltretutto, gli hanno divelto il tergicristallo, no, gli hanno rotto gli specchietti retrovisori e poi gli hanno scritto sulla macchina: scusami tanto, ma siccome mi annoiavo ho fatto questo. Ma ecco, pensi, siamo arrivati a questo punto. Povero uomo, no, veramente, questa è veramente una cosa grave, grave lo dico, ma senza senso di ironia. Mai un oltraggio all'estetica umarellica così forte è stato fatto come strappare tergicristalli e poi dare a questo senso anche una sorta di sbeffeggiamento ulteriore. Scusa, ci annoiavamo. Quel signore probabilmente ogni settimana andava alla fontanella pubblica, la puliva, la lavava, la lucidava, gli metteva la cera, gli metteva la cappottina, e adesso starà lì a pensare quanto questi giovani abbiano tradito quella che è la missione di evoluzione sociale. Manuel, buongiorno. Sì, buongiorno agli altri invitati alla trasmissione. Ciao Melo. Lei è un ex writer. Io ho fatto per tantissimi anni graffiti. Ma era bravo oppure di quelli che lo fanno così, perché non sanno che fare? Allora, diciamo che c'è chi nasce con questa passione, quindi la sviluppa nel tempo, e non concordo con il signore che abbiamo sentito prima di me dicendo che c'è una problematica legata ai genitori. Vabbè, quello è l'umarell, ci sta sempre bene, certo, chiaro. Sì, certo. Cioè, comunque, li associa a quelli che danno i calci sugli stinchi alle professoresse, non è la stessa cosa. No, no, assolutamente. Allora, distinguiamo il vandalismo da l'aerosol art. Sono due cose distinte. Ci sono, come dicevate precedentemente, dei giovani che si alzano la mattina, hanno una repressione addosso e hanno necessità di vandalismo e andare... Ma possono sbattere la testa sul muro, scusi, fa meno danno tutto sommato e provoca più efficace senso di avere operato su se stessi da parte di chi lo... Non lo so perché... Sono d'accordo, però il problema qual è? È che l'acquisto di una bomboletta è alla portata di tutti, no? E se si pensa che ci sono persone che si esprimono in modo differente, quindi ci sono i giovani che hanno problematiche e fanno uso di droga, sono giovani che hanno altri tipi di problematiche e questi che si esprimono comprando una bomboletta esprimono il proprio... Ma mica basta una, se uno vuol fare una cosa fatta bene ce ne vogliono tante. È questo che fa la distinzione. Chi compra una bomboletta e fa una tag o comunque distrugge la città con delle cose tra virgolette inutili, no? delle forme di scritture, almeno a mio parere, perché io da ex graffitaro le ritengo inutili, non hanno senso, sono come rompere il dito a Biancone o andare a danneggiare un'opera d'arte, questa è la stessa cosa. Invece ci sono quelli che sì, fanno una cultura inerente al graffitismo, studiano la storia, passano giornate a disegnare a studiare l'opera, sì sì, esatto, e poi la vanno a realizzare, ma passano anche mesi. Ecco. Ma lei, io ho capito che esiste una forma d'arte che secondo me però è un po' superata, perché l'arte è bello perché poi nelle sue forme espressive si sovrascrive, lo trovo un po' datato, però se c'è chi lo fa nessuno lo impedisce, c'è ancora chi va chi fa sculture di marmo delle Alpi Apuane con lo scalpello e fa delle opere d'arte, non è detto questo, ma questa differenza secondo lei come può essere colmata? Quale può essere la maniera per far capire che andare a scribacchiare sul muro non rappresenta nulla, poi alla fine rimani anonimo per quello che sei, c'è una maniera? Questo è difficile colmare un gap del genere, perché il limite è molto sottile, no? È molto sottile. Si può, secondo me, come si diceva precedentemente, invece inserire all'interno degli istituti delle forme proprio di insegnamento inerente all'aerosolare. Ma sentito, la signora che ha studiato il fenomeno da un punto di vista serio, statistico, dice che la maggior parte di quelli vanno a farlo, gente che ha fatto proprio studi artistici, vanno nella scuola d'arte, studiano e poi invece di comprare tele, pennelli e andare a disegnare i tramonti come poteva essere una volta o lavorare sui ritratti, vanno a scrivere sui muri. Fabiola Minoletti, rispetto a quello che ha aggiunto il nostro ascoltatore, che è un ex writer, anche se oggi fa il grafico, quindi ha trasformato questa attività in un mestiere. Sì. Pronto? Sì, sì, no, volevo sapere in conclusione, visto che siamo arrivati alla fine della trasmissione, un suo pensiero finale su quello che sarà il futuro probabilmente. Continueremo ancora per tanto tempo a vedere questo fenomeno, ci tiriamo dietro ormai da 30 anni perlomeno come minimo. In Italia ora come ora sì, perché il fenomeno è ancora in una fase di espansione, non solo di espansione ma addirittura di deriva vandalica, e ci sono poi anche proprio degli indicatori, no? Perché in America, dove il fenomeno ci ha preceduto e quindi è stato più ampiamente analizzato anche nel corso poi della sua evoluzione successiva, abbiamo dei parametri proprio indicatori di questa espansione del fenomeno in Italia. L'uso delle tecniche sempre più vandaliche, perché non c'è soltanto l'uso della bomboletta o dei pennarelloni, ma adesso in Italia si utilizzano anche le scritte con marker all'acido, quelle che vediamo sui vetri, delle pensiline, dei che non vanno più via, è difficilissimo. Infatti lì è anche un reato di danneggiamento, quindi interviene non solo il 639 ma anche il 635 del codice penale. Poi non so, abbiamo l'utilizzo più recente da 2 anni delle tag al catrame, Abbiamo le tag allo scratching, che quindi implicano di graffiare le superfici metalliche o di vetro. Poi ci sono, come secondo indicatore di questa deriva, che ormai è in tutte le grosse città italiane, la scelta degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi oggi più colpiti? Ci dica in una battuta che chiudiamo. Sì, treno, metropolitane, quindi sicuramente il fenomeno è difficile da contrastare, non c'è una unica soluzione. Se ma mi sembra che ci sia un'escalation nel colpire obiettivi sensibili, cioè fare del male veramente, non è più un gioco ma è diventato un atto vandalico finalizzato. Grazie, alla prossima.